è stata più che altro, diciamo, un'esigenza deontologica, un'emergenza nata, insomma, dentro l'emergenza del conflitto, della guerra, quello di vedere il sistema sanitario obiettivo, target, diciamo, di una guerra. Non è una novità di Gaza, ma sicuramente a Gaza l'acuità con la quale, diciamo, questa sistematica, diciamo, come dire, distruzione degli ospedali, l'uccisione di oltre 500 tra infermieri e medici nella striscia di Gaza nei primi sei mesi del conflitto ci ha scosso molto, per cui come medici e infermieri a Bologna ci siamo posti il problema di attivarci, insomma, più che altro con l'obiettivo di sensibilizzare tutti i colleghi per quanto ci era possibile, insomma, con le nostre piccole forze. Voi ricordate che bombardare o colpire gli ospedali è un crimine di guerra secondo proprio il diritto internazionale? Ma sì, sostanzialmente questo è ormai sancito anche dalla Carta di Roma, e neanche diciamo l'accusa che un ospedale possa diventare appunto luogo di riserva o di annidamento, diciamo, della controffensiva sono una giustificazione ad un attacco all'ospedale. Cioè, anche qualora un ospedale perdesse la sua condizione di immunità, l'attacco deve essere proporzionato e devono essere risparmiati pazienti e personale sanitario, che è quello che noi chiediamo poi con l'appello, insieme ad un immediato cessate il fuoco, come per molti altri, diciamo, come noi che si sono sensibilizzati su questo tema, il potenziamento del finanziamento di UNRWA, cioè l'Agenzia delle Nazioni Unite dedicata ai rifugiati in Palestina, di cui l'Italia aveva sospeso il finanziamento, che ha timidamente ripreso, in seno al coordinamento cittadina Bologna per la Palestina. Diciamo, intorno a febbraio è nata questa idea dei sanitari. Eravamo un gruppetto molto piccolo tra medici e infermieri, ma con il tantam via social siamo cresciuti. Una volta scritto l'appello abbiamo raccolto un po' oltre 220 o 230 firme solo della città metropolitana di Bologna. Tra di noi ci sono anche colleghi giovani, come colleghi in pensione, colleghe che vengono dal mondo universitario, insomma, anche direttori di unità operative dentro l'azienda USL, come appunto nell'Università di Bologna. Torno un attimo alla questione di Gaza. Oltre all'ovviamente il cessate il fuoco e alla salvaguardia del personale sanitario, voi chiedete anche che siano fatti entrare gli aiuti umanitari, perché in molte strutture ospedaliere oramai mancano proprio anche le medicine più basilari. Sì, l'emergenza ultima che leggiamo dai media, quelli che ancora fanno informazione sull'argomento, ci raccontano che c'è un'emergenza in questo momento che riguarda la diffusione di casi di poliomielite, patologia sostanzialmente eradicata attraverso i vaccini che a Gaza, in Cisgiordania, raggiungevano fino a prima del conflitto una copertura al 99% della popolazione. Oggi non sono praticati, le acque reflue contaminate e, diciamo, l'assenza di assistenza territoriale sanitaria rende impossibile appunto le campagne vaccinali nei bambini. Ci sono centinaia di casi di nuove poliomieliti. Queste poliomieliti potrebbero, diciamo, come dire, sconfinare quella regione. È una tragedia per il popolo palestinese, che potrebbe diventare diciamo endemica. Ormai i racconti che si sono susseguiti rispetto all'assenza di beni primari per l'assistenza sanitaria, quali gli anestetici locali per fare appunto i tagli cesari piuttosto che le amputazioni, sono note a tutti. Un po' meno il fatto che farmaci per la gestione delle patologie croniche, quindi, insomma, banalmente per l'ipertensione, per il diabete, nonché i farmaci per i pazienti oncologici sono non disponibili, il che rende tecnicamente insormontabile la cosiddetta lista d'attesa per il sistema sanitario palestinese, già in grossa difficoltà prima, sostanzialmente insufficiente adesso. Lo diciamo noi che combattiamo tutti i giorni con le nostre liste d'attesa, diciamo, in Occidente, in Italia, in Emilia Romagna. Insomma, ci spaventa molto l'idea che quei medicinali, che quei presidi ospedalieri siano fermi al valico di Rafa in Egitto e che non raggiungono, diciamo, come dire, i pazienti che ne hanno bisogno. ci vedremo appunto con la cittadinanza per presentare i media, per presentare l'appello, ma invitiamo colleghi, colleghe, infermieri, medici di, diciamo, tutte le aziende ospedaliere bolognesi a partecipare. Noi saremo visibili con tute, camici e quant'altro. La nostra richiesta che si aggiunge all'appello è quella del sostegno anche da parte dell'Università di Bologna di carriere per giovani medici e infermieri o aspiranti tali. Cioè, la gravità, diciamo, che in questo momento affligge il sistema sanitario a Gaza è quella di non poter continuare a formare quei giovani che in qualche modo si erano avviati, diciamo, verso queste professioni. Vorremmo sostenerli.